Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Migranti, 80.000 domande di regolarizzazione arrivate nel primo mese, flop per il lavoro agricolo. Povertà in aumento in Italia secondo la Caritas, tra marzo e maggio oltre 150.000 persone in più si sono rivolte alla Chiesa. Hong Kong, proteste di piazza contro la legge sulla sicurezza, già effettuati 80 arresti. Sequestro record di droga a Salerno, 14 tonnellate di pasticche prodotte in Siria del valore di 1 miliardo servivano a finanziare l'ISIS. Calcio, dopo le vittorie di Juve e Lazio si giocano altri 6 match di Serie A. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano le proteste a Hong Kong e gli arresti all'indomani dell'approvazione della legge sulla sicurezza, e poi anche, restando all'estero, il maxi risarcimento per le vittime del caso Weinstein. Ne parleremo più avanti. Cominciamo invece con l'Italia e con le notizie che ha diffuso questa mattina il Ministero dell'Interno e riguardano le domande di regolarizzazione nel primo mese dall'avvio della procedura. Sono 80.000, la maggior parte riguardano colf e badanti. Per l'agricoltura invece le domande sono molto poche. Sono oltre 80.000 le domande di regolarizzazione presentate nel primo mese della procedura partita il 1 giugno, quasi 70.000 delle quali già perfezionate. L'andatura delle richieste, informa il Viminale, è in costante crescita, ma il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta al momento quasi il 90% delle domande già evase e la gran parte, il 76%, di quelle in lavorazione. Dunque, protagoniste della sanatoria si confermano colf e badanti, mentre sono ben poche le richieste arrivate per braccianti e migranti impegnati nel settore agricolo, e elemento che fa già parlare di flop per quanto riguarda la sanatoria fortemente voluta dal ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova. La procedura terminerà il 15 agosto. Nel frattempo la Lombardia è prima per le richieste presentate per il lavoro domestico di assistenza alla persona e la Campania per il lavoro agricolo. Per quanto riguarda i paesi di provenienza dei lavoratori, ai primi posti risultano Marocco, Ucraina e Bangladesh per colf e badanti, Albania, Marocco e India per l'agricoltura e l'allevamento. Per il settore domestico, il 75% dei datori di lavoro che hanno perfezionato la domanda è italiano, percentuale che sale al 90% per il settore agricolo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Povertà in aumento in Italia durante il lockdown, lo evidenzia la Caritas, che con un sondaggio effettuato sulle sue strutture in tutta Italia fa sapere di avere assistito nei mesi più difficili della pandemia, da marzo a maggio, quasi 450.000 persone, di cui il 61% sono italiani. Un terzo dei soggetti assistiti, secondo la Caritas, sono definiti nuovi poveri, cioè persone che per la prima volta si sono rivolte proprio alle strutture della Chiesa. E in aumento in questo periodo, legato al lockdown, anche i reati online, vista la crescita dei flussi di transazioni economiche virtuali. Questa volta la digitalizzazione impatta in negativo sulle attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo a causa del trasferimento online durante l'emergenza Covid-19 di molte attività illegali. Un cambiamento significativo destinato a consolidarsi, che pone nuove sfide, spiega Claudio Clemente, il direttore della UIF, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, nel suo rapporto annuale, ma sottolinea le ultime normative italiane ostacolano l'accesso alle informazioni investigative. Testimoniano l'impennata digitale, le segnalazioni erano già in aumento dell'8% nel 2019, quelle per sospetti di riciclaggio, aumenti anche nel 2020 per la restrizione della mobilità individuale nella fase acuta della pandemia, che hanno accentuato lo sfruttamento del dark web, dei social media e in generale di piattaforme online per trasferire fondi, vendere prodotti illegali o attuare truffe. Fra fine febbraio e metà giugno 2020 l'unità ha ricevuto circa 350 segnalazioni di operazioni sospette direttamente collegate all'emergenza Covid, con possibile coinvolgimento della criminalità e forme di usura, soprattutto nel comparto della sanità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Però la giornata politica, con un nuovo vertice iniziato da pochi minuti sul tavolo da parte della maggioranza, le divisioni tra il PD e il Movimento 5 Stelle, che vanno dal MES alla questione del decreto semplificazioni. Restano ancora numerosi punti critici nel lavoro per definire il decreto semplificazioni. A confermarlo questa mattina è la senatrice di LeU Loredana De Petris, presente al vertice di maggioranza concluso ieri sera in tarda serata. Ed è infatti un nuovo vertice in corso da circa un'ora a Palazzo Chigi a tentare di definire un testo da portare in Consiglio dei Ministri entro venerdì. L'obiettivo è soprattutto quello di sbloccare i cantieri e le infrastrutture. Ieri sera è stata cancellata la norma sul condono edilizio voluta da Conte ma bloccata da PD, Italia Viva e LeU. Sul tema infrastrutture resta sul tappeto l'ipotesi dei commissari con pieni poteri, ma il PD vorrebbe ridurre il più possibile la lista, mentre anche sugli affidamenti senza gara da alzare da 1 milione di euro fino a 5,3 la discussione è ancora aperta. Alle 15 il Premier Conte è atteso in aula alla Camera per il Question Time e c'è da attendersi un attacco dell'opposizione sul MES per cercare di aprire la ferita di una maggioranza che sul tema resta spaccata. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi ricordo che nella seconda parte di Effetto Giorno faremo il punto sulle misure a sostegno del reddito con il sottosegretario al lavoro Francesca Puglisi. Parleremo anche dell'andamento della regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Adesso la cronaca. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel porto di Salerno un quantitativo record di droga, 14 tonnellate di pasticche prodotte in Siria dall'ISIS per finanziare il terrorismo. La droga era nascosta all'interno di cilindri di carta per uso industriale. Per noi in pratica è un riscontro. Un riscontro alle indagini in corso da mesi. Ci spiega così Domenico Napolitano, colonnello della Guardia di Finanza che ha portato al più grande sequestro di anfetamine al mondo. Realizzate in Siria, le pasticche di anfetamina, 84 milioni, erano destinate al mercato europeo e avevano alle spalle non una organizzazione mafiosa ma un vero cartello della droga con accordi tra mafia italiana e ISIS che produce le anfetamine per finanziare il terrorismo. La droga era nascosta molto bene in cilindri di carta per uso industriale e macchinari costruiti in maniera tale da impedire agli scanner di individuarne il contenuto, ma la Guardia di Finanza era appunto in attesa del carico, ancora il colonnello Napolitano. Ed è stato bloccato nel porto di Salerno, quindi poi la Siria oggi è il più grande produttore di pasticche di anfetamina. Si tratta del più grande sequestro a livello mondiale di anfetamine, 14 tonnellate, per un valore sul mercato di superiore a 1 miliardo di euro. Le pasticche riportano il logo del Capragon, sarebbe la droga dell'ISIS, tant'è che pasticche della specie furono rinvenute all'interno del covo dei terroristi dell'attentato di Bataclan nel 2015. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Condanna a 30 anni di carcere per Said Meshaka, processato a Torino con l'accusa di aver ucciso il giovane Stefano Leo il 23 febbraio del 2019 mentre camminava sul lungo Po. La sentenza è stata pronunciata dopo un rito abbreviato. Meshaka, dopo essersi consegnato ai carabinieri, disse di aver voluto sfogare una situazione di disagio e aggiunse che non conosceva la vittima. All'estero adesso sono migliaia i manifestanti a Hong Kong che si sono radunati a Causeway Bay per protestare contro la nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta a partire da oggi dalla Cina. La tensione è salita al punto che la polizia è ritornata ad usare i cannoni ad acqua ma anche le cartucce urticanti e i proiettili di gomma per disperdere la folla. Sarebbero già un'ottantina le persone arrestate. E ora l'andamento dell'epidemia di coronavirus nel mondo e mentre a Fiumicino tra oggi e domani ripartono oltre 200 voli internazionali. L'Unione Europea riapre le frontiere a 15 paesi extra Schengen, Cina compresa, ma esclusi Stati Uniti, Russia e Brasile. Per chi arriva in Italia si sa resta l'obbligo di quarantena, ma comunque aumentano fin da subito all'aeroporto Fiumicino di Roma i voli extra europei. Tra arrivi e partenze oggi sono una quarantina e la previsione è di arrivare a 200 per un volume complessivo stimato di circa 20.000 passeggeri. La pandemia continua però intanto a colpire. Negli Stati Uniti ieri si sono registrati oltre 41.000 contagi e 337 ulteriori decessi. Nell'America Latina la situazione è sempre pesante. Nelle ultime 24 ore ci sono state altre 2.500 vittime, metà delle quali si sono registrate in Brasile. In 13 province dell'Iran è tornato il lockdown per una seconda ondata di contagi, come del resto a Leicester, in Gran Bretagna, dove le autorità non escludono altri blocchi locali per soffocare nuovi focolai. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le vittime dell'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, già condannata a 23 anni di prigione per aggressione sessuale, avranno a disposizione un mega fondo di risarcimento. Per la precisione sono $18.875.000 che, secondo l'accordo raggiunto con la procura di New York, verranno versati a titolo di risarcimento alle vittime degli abusi sessuali di Harvey Weinstein, ma anche alle ex dipendenti della Weinstein Company che, fa sapere la procura generale, hanno vissuto in un ambiente di lavoro ostile, hanno subito molestie sessuali e sono state discriminate sul luogo di lavoro. Con la condanna a 23 anni di prigione per aggressione sessuale ed ora il risarcimento, si chiude così il caso che ha dato il via alla valanga del movimento MeToo. Il processo si basava sulle accuse di due donne, l'ex assistente Miriam Haley e l'attrice Jessica Mann, ma le donne che lo hanno accusato direttamente e indirettamente sono state decine. «Mi dispiace davvero, userò il mio tempo per provare a diventare una persona migliore», aveva detto l'ormai ex potente produttore di Hollywood al processo, seduto su una sedia a rotelle. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24. 13-11 minuti, siamo allo sport. Il calcio, ieri nuove vittorie per Lazio e Juventus, stasera altre 6 partite se non sbaglio, è difficile tenere il conto delle partite. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Beh, insomma, ci stiamo divertendo e parecchio, perché ieri sera c'è stato questo confronto diretto a distanza tra la Lazio e la Juventus. Hanno vinto entrambe in modo diverso, perché la Lazio in rimonta perdeva 1-0 dopo pochi minuti il rigore di Belotti ed è riuscita di nuovo a ribaltarla col gol finale di Parolo, festeggiatissimo con grande assembramento di compagni di squadra, ma tutto giustificato da una vittoria fondamentale. Poi la Juventus, che a Genova nel primo tempo così come con il Lecce, poi solita magia di Dybala, solito gol di Ronaldo, questa volta non su rigore ma bellissimo, altrettanto bello gol di Douglas Costa. Una Juventus nel secondo tempo apparsa in ripresa e più convincente. Fatto sta che continuano a correre entrambe, e questo campionato così strano e senza pubblico pagante, senza spettatori, onestamente dal punto di vista dello spettacolo televisivo, nonostante il caldo e le difficoltà ambientali, è molto bello. Grazie Carlo, appuntamento con il pomeriggio sportivo dopo le 14. Naturalmente parleremo ancora invece nella seconda parte di Effetto Giorno, dell'andamento degli ascolti delle partite di calcio in TV e non solo. E invece adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666, ripartiremo dal ricordate lacrime della ministra Bellanova per il colpo che si voleva dare al caporalato con la regolarizzazione dei lavoratori in nero, in particolare lavoratori agricoli. Ebbene, il primo bilancio, 80.000 domande, ma solo il 10% sono lavoratori agricoli. Faremo un bilancio tra poco con il sottosegretario al Ministero del Lavoro, Francesca Puglisi. A tra poco. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Migranti, 80.000 domande di regolarizzazione arrivate nel primo mese, solo il 10% sono braccianti agricoli. Effetto Giorno, il sottosegretario Puglisi. Hong Kong, proteste di piazza contro la legge sulla sicurezza, già effettuati 80 arresti. Salerno, sequestro record di 14 tonnellate di droga sintetica del valore di 1 miliardo, prodotte in Siria, servivano a finanziare l'ISIS. Calcio, dopo le vittorie di Juve e Lazio, oggi altri 6 match di Serie A. Minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E allora, avete sentito dai titoli, è con noi il sottosegretario al Ministero del Lavoro, Francesca Puglisi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito, Puglisi. Ricordo solo il dato, che in realtà abbiamo già parlato nella prima parte del programma con un servizio di cronaca. Sono 80.366 le domande di regolarizzazione presentate nel primo mese della procedura partita il 1 giugno per quanto riguarda la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, che era molto attesa perché... soprattutto per quanto riguarda il lavoro in agricoltura, dove si erano calcolati fino a 200.000 posti di lavoro mancanti a causa anche delle difficoltà di spostamento di lavoratori che in genere provengono dall'estero. Adesso alcuni di questi problemi non ci sono più, ma insomma l'esistenza del lavoro nero in agricoltura è un fatto, ahimè, atavico. Ebbene, solo il 10% di queste domande riguarderebbero il lavoro agricolo, mentre la maggior parte si concentrerebbero nel lavoro domestico e molte anche nelle regioni del nord. Quindi si ribalta un po' anche il luogo comune che vede il lavoro nero più attivo al sud che non al nord, ma è probabile sia un effetto, diciamo, ottico, perché in realtà queste sono domande di regolarizzazione, non è una fotografia del nero. Sottosegretario Puglisi, come sta andando rispetto a quelle che erano le vostre aspettative e perché eventualmente non sta funzionando molto bene in agricoltura la sanatoria? Ma pensiamo che innanzitutto voglio dire che la possibilità di presentare le domande è stata prorogata al 15 agosto, dunque un'opportunità che continua ad essere aperta appunto per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto. Peraltro nel decreto rilancio sono presenti alcuni emendamenti e quindi ci sono possibilità di apertura anche a ulteriori settori rispetto a quello agricolo e al lavoro domestico, i colf e badanti. Le domande stanno arrivando, pensiamo che la riluttanza soprattutto degli imprenditori agricoli sia dovuta all'incertezza circa il pagamento dovuto per la regolarizzazione, cosa che sarà chiarita al più presto perché manca l'ultimo parere del MEF sul decreto ministeriale. E, come sapete, il fabbisogno di manodopera agricola non è ovviamente solo destinato a chi verrà regolarizzato, ma noi avevamo inserito anche ed è già legge nel decreto rilancio la possibilità di partecipare alla stagione agricola anche a chi oggi è in cassa integrazione o sta percependo il reddito di cittadinanza, integrando con appunto ciò che già percepisce con il lavoro ci sono, in agricoltura. Sottosegretario, ci sono già dei dati su questo secondo filone, diciamo, di intervento questo, del governo? Su questo secondo filone personalmente i dati non li ho, ma ci sono intanto c'è una novità proposta da ANPAL per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è un'app che si chiama Resto in Campo, dove appunto si possono presentare le proprie la propria offerta, insomma la volontà di lavorare per la stagione agricola e si dà la possibilità ai datori di lavoro di attingere da questo portale e così anche le stesse organizzazioni datoriali hanno promosso diverse opportunità attraverso i loro siti. Quindi ecco, Staremo a vedere su questo, fronte. Le farei anche un paio di domande per quanto riguarda più in generale anche l'attività del governo sul fronte del sostegno al reddito e insomma sulle misure economiche, perché per esempio è allo studio, abbiamo capito, una proroga degli ammortizzatori sociali, cassa integrazione, per quali categorie si sta pensando, Puglisi? Ma ovviamente l'impegno del governo è quello di continuare a sostenere imprese e lavoratori in questo momento gravissimo di crisi, quindi sappiamo che alcuni che hanno iniziato da subito ad utilizzare gli ammortizzatori sociali a causa del lockdown, soprattutto nelle prime zone rosse, termineranno la cassa integrazione il 18 luglio, dunque interverremo con un'ulteriore proroga, soprattutto dedicata ai settori più colpiti, quindi turismo, fiere, congressi, allestitori, tutti questi settori che davvero ancora oggi stanno risentendo moltissimo della crisi, lo stesso automotive, come sapete, è un settore molto, molto colpito. Però sarà un decreto a cui appunto stiamo lavorando, che darà anche la possibilità a chi, stiamo ragionando su una norma che preveda che chi rinuncia alla cassa integrazione, quindi riaprendo sì. i battenti, per esempio, del proprio albergo, possa contare su uno sgravio contributivo. Quindi sarà un mix di misure proprio per sostenere l'occupazione e le imprese in questa delicata fase. Uno sgravio di che entità? Uno sgravio contributivo? Adesso, ripeto, stiamo lavorando sulle quantificazioni sì. di tutto. Sono ancora misure allo studio. Sono misure allo studio. Senta, si sta lavorando anche sulla moratoria per i rinnovi dei contratti a termine, cioè che era un provvedimento bandiera sì. del Movimento 5 Stelle, però in questa fase c'è già un accordo nel governo su questo? Stiamo lavorando per fare un provvedimento complessivo che da un lato appunto proroghi gli ammortizzatori sociali, dall'altro però si prenda cura anche di quelle opportunità del mercato che possono essere colte dalle imprese e soprattutto attraverso quelle forme di lavoro, seppure a tempo determinato, che comunque sono davvero tutelanti per lavoratori e lavoratrici. Quindi si va verso una estensione delle possibilità di rinnovare i contratti a termine. Ad oggi nel decreto rilancio è prevista l'annullamento, diciamo, delle causali fino al 30 agosto e quindi pensiamo di prorogare questa misura fino a fine anno. Benissimo, senta, un'ultima cosa riguarda il taglio fiscale, il taglio del cuneo fiscale che scatta proprio da questi giorni, da oggi. Come funziona? Perché anche qui se ne occuperà tra l'altro più avanti nella puntata il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli, evidenziando che facendo lo sconto sul bonus 80 euro di Renzi, facendo la tara sulla soglia di 40.000 euro oltre il quale non c'è alcun beneficio, eccetera eccetera, andando nella fascia dove invece si sono solo una decontribuzione, adesso non ricordo la forma esatta, ma non sono soldi reali in busta paga, ma sono meccanismi di detrazioni, sembra che non resti molto. Come funziona questo sconto in busta paga? È un ulteriore sconto in busta paga rispetto a quello che fu il bonus Renzi di 80 euro, questo arriva fino a 100 euro, il meccanismo è più o meno lo stesso. Io adesso sono al Ministero del Lavoro, non sono al MEF, per cui nei dettagli tecnici francamente non sono in grado di entrare, però l'intento quando abbiamo preso questo provvedimento che entra in vigore adesso è proprio quello di continuare a lasciare più soldi possibile nelle tasche delle persone ed è un provvedimento che riguarderà davvero milioni di persone, quindi pensiamo una buona notizia per tantissimi lavoratori e lavoratrici. Grazie sottosegretario Puglisi, grazie per essere stata con noi. E va bene, la notizia principale però riguarda quello che possiamo definire un flop della regolarizzazione per il lavoro agricolo. Ci sono 80.000 domande, 70.000 già effettuate, la maggior parte però riguardano lavoratori come Colfo e Badanti. Per sanare quella questione del caporalato in agricoltura occorreranno altre misure, evidentemente se ne è parlato più volte, un progetto anche culturale ed economico di sostegno di tutta la filiera, perché per tanti produttori con un mercato difficile come quello dei prodotti agricoli e degli ortaggi il taglio del costo del lavoro diventa una tentazione difficile da eludere. Allora ci vorranno strumenti diversi, come per esempio ci sta lavorando il Ministero dell'Agricoltura, una piattaforma se possibile nazionale, per un marchio nazionale dei prodotti che rispettino i diritti dei lavoratori in tutta trasparenza, quindi garantendo frutta e ortaggi freschi sulla tavola degli italiani, ma anche i diritti soprattutto di questi lavoratori che fino ad oggi sono equiparabili ad un esercito paraschiavistico, senza tanti giri di parole. 13:26 minuti, adesso come anticipato torniamo a parlare in qualche modo di sport in TV, record di ascolti per alcune di queste partite che in questi giorni sono numerose, in particolare su Sky. Vediamo come sta andando con Marta Cagnola. Il calcio è ripartito con gli stadi vuoti, ma con il pubblico davanti alla TV. E sulle generaliste i dati d'ascolto testimoniano che la voglia di pallone c'è. Le semifinali di Coppa Italia hanno segnato il 34,32% di share, la finale il 39%. Anche sui canali a marchio Sky l'ascolto è più alto rispetto alla stagione precedente. Gli eventi dunque nella TV classica continuano ad attrarre pubblico ed emergono in un palinsesto già depotenziato dal Covid e ora con il freno un po' tirato per l'estate. E agli appuntamenti importanti si affianca sempre più la TV on demand. Qualche giorno fa una ricerca BVA Doxa e Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano aveva evidenziato come il 59% degli italiani nei primi mesi dell'anno ha avuto accesso almeno a un servizio on demand. I dati evidenziano un deciso trend di crescita più 5 punti percentuali nella scelta di un contenuto da vedere navigando direttamente all'interno dei cataloghi on demand a disposizione. Insomma, si conferma il trend palinsesto personalizzato più generaliste negli eventi imperdibili e la pandemia potrebbe aver accelerato il cambiamento delle nostre abitudini. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua, 13:27 minuti, cari ascoltatori. Torniamo tra poco, dopo la pubblicità, le informazioni di borsa, i titoli delle notizie di oggi. Poi torneremo con il caso Dentix, una cinquantina di cliniche per le cure dentarie in tutta Italia che dopo la chiusura per il lockdown non hanno riaperto. La notizia adesso è che la procedura fallimentare è più vicina. Ci sono tante persone che sono rimaste fregate perché hanno magari anticipato delle spese per delle cure dentarie che non arriveranno. Ne parleremo dopo la pubblicità, tra poco. 349-238-6666. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. L'Unione Europea deve prepararsi alla Brexit senza accordo, lo ha detto Angela Merkel a Berlino al Bundestag. Oggi inizia il semestre di presidenza tedesco dell'Unione. Migranti, 80.000 domande di regolarizzazione arrivate nel primo mese, flop per il lavoro agricolo. Hong Kong, proteste di piazza contro la legge sulla sicurezza, già effettuati 80 arresti e per la Gran Bretagna la legge è una violazione degli accordi tra Londra e Pechino. Sequestro record di droga a Salerno, 14 tonnellate di pasticche prodotte in Siria per finanziare l'ISIS. Calcio, dopo le vittorie di Juve e Lazio ieri, oggi si giocano altri 6 match di Serie A. minuti, eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Due veloci notizie, vi risparmio l'elenco di messaggi a 349-238-6666 sulla regolarizzazione, sull'intervista col sottosegretario Puglisi sulla sanatoria per i lavoratori stranieri, che, messaggi che vanno dallo scetticismo alla contrarietà più totale, ma insomma il dato di fatto è che la sanatoria per ora ha prodotto un risultato abbastanza modesto, molto modesto sul fronte dei lavoratori agricoli. L'ultima ora, una notizia riguarda la morte del fratello dell'ex Papa Ratzinger, di Benedetto XVI. Aveva 96 anni, Georg Ratzinger. Il Papa era andato a trovarlo 2 settimane fa, arrivando in Germania il 18 giugno per dargli il suo addio. E niente, c'è la notizia ufficiale della scomparsa di Georg Ratzinger, ma più importante ancora mi sembra la notizia che arriva da Londra ed è la presa di posizione della Gran Bretagna sulla legge sulla sicurezza a Hong Kong, perché ieri il premier Boris Johnson aveva detto vedremo il testo della legge che non è ancora stato diffuso, e oggi invece il ministro degli esteri Dominic Raab dice che l'imposizione a Hong Kong di questa legge rappresenta una chiara e grave violazione della dichiarazione congiunta sottoscritta da Pechino e Londra al tempo della restituzione dell'ex colonia britannica. E quindi insomma presa di posizione netta della Gran Bretagna contro la legge cinese per quanto riguarda Hong Kong. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. C'è un eccesso di effetto annuncio nelle misure prese dal governo che, se mal gestito, rischia di diventare anche un effetto boomerang. Prendiamo il bonus vacanze. Avevamo capito che erano 500 euro da scontare sulla fattura di hotel, campeggi e villaggi vacanze a fine soggiorno. Sono 500 euro sì, ma per le famiglie con due figli e solo se non hanno un indicatore ISEE superiore a 40.000 euro. Per i singoli il bonus è di 150 euro. Sappiamo ora che è facoltativo da parte degli albergatori e c'è il rischio che alla fine sia accettato da meno della metà dei soggetti. Il bonus poi è per l'80% uno sconto in fattura e per il 20% credito d'imposta, che significa scontrini da conservare e ulteriori calcoli da fare nella dichiarazione dei redditi. E che dire del taglio al costo del lavoro? Abbiamo sentito che da oggi parte l'aumento da 100 euro al mese. Riguarderà solo chi ha redditi tra 26.600 e 28.000 euro. Per chi percepisce fino a 26.000 euro verrà semplicemente aggiornato il bonus Renzi di 80 euro e quindi diventeranno 20 euro in più. Per chi sta sopra i 28.000 euro invece lo sconto diventa una detrazione da far valere nella dichiarazione dei redditi e sarà decrescente all'aumento del reddito e diventerà zero se si guadagnano 40.000 euro. Diciamo la verità, questa consueta giungla ci dice molto su quanto siamo lontani dall'obiettivo della semplificazione. E adesso, come anticipato nel sommario, ci occupiamo del caso Dentix, le cliniche per le cure dentarie presenti in Italia che sono chiuse durante il lockdown e non sono più riaperte. La notizia è che qualche giorno fa la società ha fatto richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Milano. Quindi ci sono 120 giorni di tempo prima di decidere che fine farà questa società, se chiuderà, se nascerà sotto un altro nome, insomma. Intanto però ci sono un sacco di persone che sono rimaste beffate, avevano pagato magari degli acconti per avere delle cure dentarie, oppure avevano anche fatto un finanziamento. Ci sono casi anche di questo genere raccolti per esempio dalla Diconsum. Ecco, noi Danilo Galvagni, che è il vicepresidente nazionale, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Grazie per essere con noi, Galvagni. Allora, appunto, ci sono varie denunce che voi state raccogliendo contro la Dentix. Prima di arrivare a questo, ci può ricapitolare un attimo, ricordare la storia di questa società straniera che opera in Italia e insomma, quando ha smesso anche di lavorare e perché? Beh, per noi è un po' di tempo che stiamo seguendo i problemi che gli utenti e gli iscritti ci hanno portato su Dentix. Eravamo in attesa di avere comunque la conferma che la società avesse aperto il concordato preventivo, perché altrimenti ogni azione di carattere legale nei suoi confronti avrebbe avuto delle difficoltà. Oggi, il 25 giugno, qualche giorno fa, è stato consegnato a Milano, come hai anticipato, la richiesta di concordato preventivo. Stiamo parlando solo per Adiconsum di più di 1.000 persone su tutto il territorio nazionale. In questo momento le regioni che stiamo seguendo noi direttamente, perché sono quelle che hanno sollevato per prime i casi, sono le Marche, la Lombardia, l'Emilia, la Puglia e la Sardegna. Ciò non vuol dire che poi col tempo si assommeranno altre regioni e ci sarà ulteriore incremento delle problema, Galvagni, quando nasce nel momento in cui le cliniche chiudono e non riaprono. Certo, non sono più nelle condizioni di erogare la prestazione e il servizio che si erano impegnati a fare. Noi non siamo a conoscenza del rapporto che c'è fra Dentix e eventualmente i professionisti che operavano per Dentix, per cui non vi posso saper dire che tipo di società è questa Dentix. È un SRL. Per cui noi possiamo solamente verificare il fatto che nelle sedi Dentix, che sono circa 57 in tutta Italia, oggi come oggi queste sedi non rispondono più e non erogano più il servizio che gli utenti avevano pagato. Ecco, Poi, prego. Poi giustamente il problema è che c'è stato qualcuno che ha anticipato i pagamenti e si è ritrovato un parziale lavoro. Le nostre preoccupazioni sono per tutte quelle persone che invece hanno aderito a un finanziamento e questi finanziamenti purtroppo bisogna sospenderli in qualche modo. Tra parentesi, avendo i lavori fatti a metà. Ecco, per quindi il danno è la beffa. Danno economico e poi anche il fatto di avere in bocca una situazione, diciamo, ancora da curare, da risolvere. E sappiamo bene quanto anche poi in questo particolare segmento, come credo si collochi la dentist, cioè cure dentarie a costi non esorbitanti, quindi andando incontro anche sulla carta alle esigenze di tutti, ritrovarsi in una condizione del genere non deve essere un bel problema. Cosa possono fare? Cosa state facendo per queste persone? Allora, le persone si devono rivolgere sicuramente all'Associazione dei Consumatori, Adiconsum, una di queste. Noi abbiamo fatto un modulino standard di messa in mora di Dentix sulla prestazione, in quanto non c'è più questa prestazione. Il problema successivo è verificare però da contratto come si è concretizzato il finanziamento, perché se il finanziamento si è concretizzato nella sede di Dentix o Dentix ha prospettato all'utente una finanziaria in particolare, c'è un collegamento tra il finanziamento e Dentix, per cui possiamo bloccare immediatamente il finanziamento, anzi, e chiedere indietro anche le rate che sono state versate. Senta Galvagni, ma poi al di là di questo, per chiudere, che spiegazioni state cercando così di darvi e di dare anche ai vostri assistiti? Cosa può essere successo? Cioè una difficoltà reale dopo il lockdown, quindi diciamo a catena, come è successo per tante aziende, la difficoltà, la liquidità ad operare, eccetera, oppure insomma c'è anche della, come dire, si può cominciare a leggere anche un'intenzionalità, qualcuno che sia scappato col malloppo? E questo non glielo so proprio dire. E sicuramente il lockdown ha contribuito a creare le condizioni affinché un'impresa di questo tipo non potesse più stare in piedi. Sarebbe importante però ricordare alla politica che oggi il problema si chiama Dentix, domani si potrebbe chiamare in qualunque altro modo. Le cure, specialmente i servizi alla persona di carattere sanitario, sono da tutelare in maniera diversa e in maniera molto più forte. Probabilmente più lo Stato arretra dalla tutela sanitaria, più noi ci troveremo esposti a dover finanziare una tutela sanitaria personale con questi rischi. Per cui mi auguro che la politica intervenga con normative che leghino fra di loro la prestazione sanitaria con la tutela dei finanziamenti che un soggetto privato, una famiglia andrà a fare per stare meglio, per vivere meglio. Grazie Galvagni, grazie al vicepresidente nazionale Adiconsum. 13:44, facciamo una piccola pausa, poi come sempre è il momento di Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra poco.